Le 13:02. GR 24, il sole 24 ore. Riuniti ad Arcore con Berlusconi, vertici del PDL, Bossi rilancia Tremonti vice premier. Primo giorno da leader del PD per Bersani, che oggi farà visita agli artigiani di Prato. Arrivata in acque italiane la barca con 200 immigrati in balia del mare da giorni, Libia e Malta non intervengono. Ferme le politiche ambientali delle città italiane, secondo Lega Ambiente, ma a Firenze piazza Duomo è off-limits per le auto. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. In primo piano il vertice di maggioranza in corso nella residenza lombarda di Berlusconi ad Arcore. Molti i temi sul tavolo, come ci dice in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un faccia a faccia tra Berlusconi e i coordinatori del Popolo della Libertà, quello in corso ad Arcore, convocato per una riflessione urgente all'interno del maggiore partito di governo dopo le ultime inquietudini legate alla politica economica dell'esecutivo. Intorno allo stesso tavolo siedono Berlusconi, Bondi, La Russa e Verdini. All'interno del PDL, su spinta soprattutto della componente ex Alleanza Nazionale, si chiede un riequilibrio dei rapporti di forza, sbilanciati secondo molti verso la Lega, sotto accusa in particolare la richiesta di un ruolo maggiore nel governo da parte di Tremonti. Oggi Bossi si è tornata a chiedere per il ministro dell'economia il ruolo di vice premier. Dal PDL si risponde che ciò vorrebbe dire commissariare lo stesso Berlusconi sulla politica macroeconomica di Palazzo Chigi. In sintesi è la tesi del Popolo della Libertà: Berlusconi è il premier, tocca a lui l'ultima parola sulla politica economica e su come e quando utilizzare le risorse dello Stato. Più esplicito il presidente del Senato Schifani, che aggiunge: la gente vota per Berlusconi, mica per Tremonti. È tutto, linea allo studio. E naturalmente l'altro tema politico di giornata riguarda il Partito Democratico, che ha un nuovo leader. Elisabetta Fiorito, in diretta da Roma, ci aggiorna sul programma della prima giornata. Sì, abbiamo dimostrato che questo può essere un paese normale, così per Luigi Bersani. Oggi commenta all'esito delle primarie che lo ha letto segretario del Partito Democratico. Si tratta di una grande vittoria per il PD, di una giornata incredibile per partecipazione e anche per organizzazione. Oggi siamo più simili ai grandi paesi democratici, continua Bersani. Non so se altri vogliono fare questa riflessione, dice il neosegretario, probabilmente rivolgendosi al premier Silvio Berlusconi. Tornare al governo del paese sembra l'obiettivo del neosegretario, e a questo proposito Bersani ribadisce di voler tornare all'Ulivo e alle alleanze, archiviando di fatto la fase del corriamo da soli che aveva caratterizzato le segreterie Veltroni-Franceschini. Nell'Ulivo, dice Bersani, c'era il sapore di una grande riscossa civica, non era una sola operazione politica. E questo è il punto che intendo riprendere, perché abbiamo bisogno di mettere dentro la forza che abbiamo dimostrato ieri con le primarie, l'idea che questo paese può vivere intorno alle regole, ai meriti, ai diritti, ai doveri. E alle 15:30 il neo segretario del Partito Democratico sarà a Prato per incontrare artigiani e lavoratori, come aveva promesso ieri all'investitura delle primarie, per tornare a dialogare con il paese reale in una delle aree più colpite dalla crisi. Per il momento questo è tutto, per studio. Bene, grazie a Elisabetta Fiorito e anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Naturalmente sono molti i commenti. Per noi c'è Stefano Folli. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. È come ha detto Bersani, la partecipazione, questo numero di persone che ha partecipato alle primarie, un forte segnale per il paese? Ma insomma, io eviterei un eccesso di enfasi, naturalmente, però si tratta sicuramente di un fatto democratico molto importante. Si è dimostrato da parte di tante persone una partecipazione a un processo democratico, e direi proprio una passione civile, che è sicuramente un dato molto positivo di cui bisogna tener conto, e che ha dato a Bersani una forte legittimazione popolare che lo rende un segretario piuttosto forte. Come cambia ora il rapporto con la maggioranza? Che cosa possiamo aspettarci? Ma intanto, diciamo, abbiamo visto degli attestati di stima da parte del centrodestra, e questo fa un po' parte, diciamo, del rituale politico. Indubbiamente Bersani è un uomo di buon senso, e questo non può che far bene, diciamo, alla dialettica democratica. Non mi aspetto dei risultati eccezionali, un cambiamento di segno nei rapporti tra maggioranza e opposizione. In questo momento l'opposizione è ancora troppo debole per poter andare tranquillamente a un dialogo sulle grandi riforme con la maggioranza, no? Immaginarsi, insomma, la riforma della giustizia è un tema molto delicato, richiede una certa sedimentazione per potersi immaginare che maggioranza e Partito Democratico dialoghino e addirittura trovi dei punti di convergenza. Però indubbiamente si tratta anche qui, insomma, di un fatto positivo, il fatto che ci siano questi segnali per un futuro non immediato ma più lontano del tempo, ecco, lasciami sperare. Un'ultima domanda. Bressani ha detto: farò il leader a modo mio. C'è chi dice che sarà condizionato da D'Alema. Tu che cosa ne pensi? Penso che Bersani debba da una parte riunire il partito, se possibile evitare contraccolpi, qualche fenomeno scissionista, e dall'altra deve effettivamente dare l'impressione che il leader è lui, che non è soltanto un primus inter pares di un gruppo di capi corrente, no? Di una nomenclatura interna. E questo vale anche rispetto a D'Alema, naturalmente, che rimane un'autorevole personalità del Partito Democratico, ma da oggi Bersani è un leader che è stato legittimato da queste primarie, da un processo che lui ha vinto con molta nettezza, no? Sia i congressi prima che adesso il ricorso alle primarie. Quindi lui fa bene a rivendicare questa sua posizione di leadership e a far valere la sua linea. Bene, grazie a Stefano Folli. Sono le 13:08, proseguiamo con le altre notizie. Il caso Marrazzo, il video che ritraeva il governatore della regione Lazio è stato offerto al settimanale Chi in cambio di 200.000 euro dall'agenzia Foto Masi. Ad avvisare Marrazzo della proposta, rifiutata però dal gruppo Mondadori, sarebbe stato lo stesso premier Berlusconi, che avrebbe assicurato a Marrazzo che il filmato non sarebbe stato pubblicato dai media di sua proprietà. Ma Signorini dice: sono stato io a decidere in maniera autonoma. Sentiamo il direttore di Chi al microfono di Marta Cagnola. Sono stato contattato da Carmen Masi, dell'agenzia fotografica Masi. Praticamente io, dopo aver preso visione del video, ho deciso immediatamente di non acquistarlo e di non pubblicarlo. Questo in linea con quanto è la mia etica giornalistica, perché mi ero comportato nella stessa maniera con le foto di Sircana che arrivarono per primo sulla mia scrivania. Ho informato l'azienda, i vertici dell'azienda, che hanno concordato assolutamente sulla mia decisione, cioè della non acquisizione del video che mi era stato proposto per 200.000 euro trattabili. Questo è successo circa 12 giorni fa, 10-12 giorni fa. La cosa che più mi ha infastidito, devo dire, è l'atteggiamento di certa stampa che scrive: Berlusconi ha garantito a Marrazzo che il suo video non sarebbe mai stato pubblicato su Chi. La decisione di non pubblicare le foto è stata presa in modo autonomo dal direttore di Chi, che è il sottoscritto. Punto e basta. Poi Berlusconi credo abbia avvertito Marrazzo, gli avrà detto quale agenzia fotografica lo stava vendendo. E infatti poi Marrazzo si è messo in contatto con l'agenzia Masi. Direttore, il fatto che nessun giornale abbia voluto pubblicare quelle immagini? Io mi auguro che questo sia un segno di civiltà e anche di distensione verso un certo modo di fare giornalismo, che oramai non ha stancato soltanto gli addetti ai lavori, ma ha stancato soprattutto i lettori. Cambiamo argomento, parliamo di traffico e rifiuti, due grossi temi su cui a fatica i comuni italiani si muovono e sui quali in 10 anni sono stati fatti pochi interventi forti. E questo è il dato che emerge dal rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore. Le città italiane sono ferme nell'insieme al 27% di raccolta differenziata, molto lontane dal 50% che andrebbe assicurato entro quest'anno. Il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, al microfono di Cristina Carpinelli. Se andiamo a guardare le classifiche degli ultimi anni, sostanzialmente le prime 20 città sono sempre le stesse, possono variare di anno in anno la postazione per quarta, quinta, ottava, decima, ma sostanzialmente c'è quindi una stabilità. Evidentemente in quei governi locali, spesso anche indipendentemente dal colore politico, c'è un'attenzione e una cura del territorio che ormai fa parte della cultura politica e cultura dei cittadini. Per quanto riguarda le Verbania, Belluno e Parma, i dati fondamentali che portano queste città in testa sono sicuramente gli ottimi risultati per la raccolta differenziata per Verbania e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'ozono, e per le altre città una politiche anche qua, sia dei rifiuti che nei trasporti pubblici che nello sviluppo di energie alternative, che comincia ormai a essere consolidata. Verbania, con i suoi 30.000 abitanti, è la città che meglio ricicla e differenzia, ma è anche la città dove la bicicletta è il mezzo di trasporto più utilizzato, come racconta Cristina Carpinelli il sindaco Marco Zacchera. Vivere in un posto meraviglioso, a fronte di un lago, in cui abbiamo tutto il verde che vogliamo, in cui il traffico ovviamente è relativamente poco perché sono 30.000 abitanti, comunque sei nelle prime posizioni. Poi negli scorsi, io sono sindaco da pochi mesi, sono state fatte delle politiche intelligenti di carattere ambientale, soprattutto la raccolta rifiuti che è differenziata in maniera esasperata, e devo dire che ormai i cittadini sono abituati a questo. Poi altre cose che stiamo facendo proprio sulla raccolta del fumido, nell'arrivare a recuperare quasi tutto dei rifiuti, direi che queste sono linee di forza. E mentre Lega Ambiente presenta i risultati di questa indagine, a Firenze i cittadini cominciano a prendere le misure dopo la chiusura al traffico di Piazza Duomo. Ubaldo Cianciulli questa mattina ha sentito il parere di alcuni fiorentini. Posso chiedere ai tassisti alla stazione come va oggi con la nuova viabilità a Firenze? Diciamo, io pensavo molto peggio, invece mi sono ritrovato stamattina, si viaggia bene. L'edicolante di via Martelli, prima giornata senza traffico, come va? Giornata senza traffico è una cosa incredibile, qui è bello, mi rendo conto che ci saranno problemi anche un po' più magari fuori dal centro, anche qui in centro, perché stamane alle 6 sembrava un'autostrada ugualmente. Non è tutto oro e luce ancora. Oggi ho visto che siete molti agenti a presidiare i punti critici, nevralgici per questa nuova rivoluzione della mobilità. Come sta andando? Bene, rispetto a quello che ci aspettavamo abbastanza bene, sì. Traffico è intenso ma comunque scorre. I cittadini naturalmente, ci sono quelli che apprezzano la pedalizzazione, quelli che invece hanno subito provvedimenti più consistenti sono un pochino più irritati naturalmente. Probabilmente si abitueranno anche alla situazione. Seconda parte di GR24 alle 13:17 minuti, in primo piano alla politica. Sono riuniti ad Arcore con Berlusconi mentre vi parliamo i vertici del PDL, tutto questo mentre oggi è il primo giorno da leader del PD per Pierluigi Bersani. C'è un'altra notizia in primo piano, la nave che da qualche giorno è in balia del mare tra Malta e la Sicilia, arrivata in acque italiane, sta forse per concludersi, quindi l'odissea dei 200 immigrati in balia delle onde. Rifiutati dalle autorità maltesi, ora si trovano appunto vicini alla Sicilia e quindi a soccorrerli saranno tra poco le nostre imbarcazioni. Dalle 10 di stamani è di competenza italiana il soccorso nei confronti del barcone con circa 200 migranti a bordo da alcuni giorni in balia del mare nel canale di Sicilia. A coordinare le operazioni il Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Il barcone si trova ora a 33 miglia circa dalle coste siciliane in acque SAR, che sta per ricerca e soccorso, di nazionalità italiane. Il mare in burrasca rende piuttosto instabili e precarie le condizioni della carretta, anche se da venerdì sera viene scortata dalla petroliera italiana Antignano, che cerca di fare da barriera alle onde. L'imbarcazione, carica di immigrati, tra cui donne e bambini, sarà presto raggiunta da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, e da un rimorchiatore. Abbiamo raggiunto telefonicamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania. Dato le condizioni meteo in zona, che sono abbastanza brutte, massimo 4 ore dovrebbero intercettare il convoglio, quindi per adesso siamo in fase di avvicinamento. E porteranno in salvo adottando le azioni più opportune dovute anche alle condizioni meteo marine. Siamo grati al comandante e all'equipaggio della petroliera Antignano che hanno dimostrato grande senso di responsabilità nello scortare l'imbarcazione, ha detto Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Rimaniamo in Sicilia, a Catania. Un operaio ha accoltellato la moglie e la figlia, e una delle figlie di 8 anni. Sentiamo i particolari nel servizio. Una famiglia come tante, lui operaio in una ditta di pompe funebri, lei casalinga, due figlie. Tra Carmelo Sanfilippo e la moglie mai una litigata, assicura la sorella della donna, almeno fino a questa mattina, quando l'uomo, in preda ad un raptus omicida, ha accoltellato nel sonno prima la compagna, poi la secondogenita di 8 anni. Viva ma comprensibilmente sconvolta, la figlia 13enne, salvata dai carabinieri grazie a una telefonata dei vicini. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale anche il padre, che che ha tentato il suicidio, il comandante dei carabinieri di Catania, Giuseppe Governale. La ricostruzione, diciamo, più efficace potrà essere fatta al termine dei rilievi che stiamo ancora facendo. Purtroppo la situazione è particolarmente difficile. L'omicida ha parlato come può parlare una persona scioccata quando viene presa dai carabinieri, che tra l'altro anche egli è ferito, quindi ancora la situazione è completamente da ricostruire. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha ridotto la pena da 9 a 8 anni di carcere a carico di un algerino che nel 2007, durante una rissa, uccise a coltellate un colombiano che l'aveva deriso. Lo sconto di pena è stato concesso perché l'uomo è stato giudicato geneticamente vulnerabile. Attraverso un'indagine cromosomica è stato cioè trovato in possesso di alcuni geni che lo renderebbero più incline all'aggressività se provocato. Per la prima volta in Italia viene applicato un orientamento giuridico emergente a livello internazionale, come osserva il giudice Amedeo Santosuosso, consigliere di Corte d'Appello a Milano, docente di diritto e scienze della vita all'Università di Pavia. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Ci troviamo in un terreno di frontiera, obiettivamente. Certo è che da che si sta studiando il genoma sono aumentate le ipotesi circa delle connessioni tra alcune caratteristiche genetiche e alcuni tipi di comportamento. D'altra parte, la decisione di Trieste è in linea con quanto è emerso nel dibattito internazionale e in particolare in un documento del 2002 del National Council of Bioethics, un'istituzione inglese molto prestigiosa, e il concetto è molto semplice. Al momento non vi sono conoscenze scientifiche sufficienti per dire che una determinata costituzione genetica porta a escludere la responsabilità e quindi a considerare una persona non colpevole. Però, nello stesso tempo, si dice che nei singoli casi saranno i giudici a valutare se nel determinare la pena da applicare si debba tener conto di alcune caratteristiche accertate attraverso una adeguata perizia. E questo è quello che sembra essere accaduto esattamente a Trieste. Parliamo adesso del sondaggio di Radio 24. Oggi vi abbiamo chiesto se siete d'accordo o no ai finanziamenti pubblici all'editoria. Più che un sondaggio, un plebiscito quello di oggi. Parlavamo di finanziamenti pubblici all'editoria, vi chiedevamo se eravate favorevoli alla loro abolizione. Ne è uscito un 88% di sì. Forse anche per le degenerazioni che la legge ha portato con sé negli anni, portando a contributi a pioggia anche a testate improbabili. Di finanziamento pubblico si discute anche nel caso di Radio Radicale, che da anni ha una convenzione col Ministero per lo Sviluppo Economico per il servizio pubblico che fa. In sua difesa, centinaia di parlamentari hanno firmato un emendamento salva contributi. Unica del PD a non sottoscriverlo, la senatrice Emanuela Baio Dossi. Io ritengo che Radio Radicale svolga anche un servizio, ma se vuole continuare a svolgerlo, mi spiace, deve imparare a mantenersi. È stato un segnale politico? Sì, è stato anche un segnale politico. Bianco Nero torna domattina alle 8:30. Per votare basta un click, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in un'aula di tribunale. I giudici di quello penale internazionale dell'AIA hanno aggiornato a domani la seduta del processo a carico di Radovan Karadzic. Il presidente iracheno Talabani ha convocato per oggi una riunione del Consiglio della Sicurezza del Paese dopo il grave attentato di ieri a Baghdad, dove sono morte più di 160 persone. Al centro della riunione anche la mancata approvazione della legge elettorale che potrebbe mettere a rischio le elezioni fissate per il 16 gennaio. Ed ora la situazione a Gerusalemme dopo gli scontri di ieri in uno dei luoghi simbolo per le due religioni della città. Continua a restare alta la tensione a Gerusalemme, dove nella mattinata di ieri si sono verificati scontri tra la polizia israeliana e fedeli musulmani riuniti per la preghiera del mattino nella moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo sacro dell'Islam, che si trova immediatamente sopra il muro del pianto degli ebrei. Secondo quanto riportano fonti ufficiali israeliane, a provocare i tafferugli sarebbero stati gli arabi, per lo più giovanissimi, che avrebbero lanciato pietre e olio contro le forze di polizia israeliane nei pressi del muro del pianto, appunto. I poliziotti avrebbero allora reagito sparando lacrimogeni, proiettili di gomma e granate rumorose per disperdere i supposti assalitori. Differente invece la versione dei palestinesi. Secondo loro, i poliziotti avrebbero compiuto un blitz all'interno della moschea, colpendo indiscriminatamente i presenti, donne comprese. In tutto, il bilancio della giornata di domenica è di 18 persone arrestate, tra cui uno dei capi di Fatah, partito del leader palestinese Abu Mazen, e decine di feriti non gravi. Gli incidenti rientrano nell'ambito di quelle che ormai vengono definite le tradizionali proteste del weekend. Da settimane, infatti, si susseguono episodi del genere. Oggi la situazione a Gerusalemme è tranquilla, ma il grado di allerta resta elevato. La spianata delle moschee per ora rimane chiusa e il timore che inizi a serpeggiare tra opinione pubblica e media in Israele è che questo clima incandescente possa essere il preludio di una terza intifada. Virginia Di Marco, GR24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Il sovrano saudita ha annullato una sentenza di condanna a 60 frustate emesse da un tribunale del regno contro una giornalista. La donna aveva partecipato ad un programma televisivo che parlava delle esperienze sessuali di un saudita. Chiudiamo parlando della MotoGP. Saluto Dario Ciocarelli. Ciao Dario, buongiorno. Sì, ciao Enrico. Ieri c'è stato un grande Valentino, abbiamo parlato molto di Valentino Rossi, però c'è un però. Eh sì, c'è un però, perché insomma in Italia ci sono sempre due pesi e due misure. Il problema non è Valentino, che è un campione che merita qualsiasi celebrazione, ma il problema è che noi parliamo sempre di Valentino e invece a volte ci dimentichiamo ad esempio della Ducati, che è tutto sommato il nostro fiore all'occhiello, tanto quanto la Ferrari, tanto quanto Valentino Rossi. Ed è bizzarro, perché ieri per esempio appunto Valentino è arrivato terzo, è vero che ha vinto il suo settimo titolo MotoGP, però insomma ieri con la vittoria di Stoner ci stava anche la vittoria della Ducati, che è il nostro così gioiellino del Made in Italy, perché la Ferrari, diciamolo tutta, quest'anno non è che abbia brillato tantissimo. Per cui ecco, siamo un po' come nell'italianità, siamo tifosi bizzarri, con alcuni sì, con altri no, e quindi sperando che Valentino faccia ancora mirabilità per anni e anni, che la Ferrari ritorni a essere quello che è stato in passato, però è bene ricordare che la Ducati in questo momento è tra i motori quella che ci dà più soddisfazione. Ci siamo fatti prendere anche noi al giornale radio. Grazie a Dario Ceccarelli. Sono le 13:27 minuti. In regia per questa edizione di GR24 Filippo Aureggi, al microfono Enrico Paglierini, che vi auguro una buona giornata. Il giornale radio torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.